Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Mi dimetto da ministro. L'ho deciso per la mia dignità. E la cosa più importante che ho e la voglio salvaguardare a qualunque costo. Ho deciso di lasciare un ministero e di lasciare un governo perché la mia dignità vale più di tutto questo ed è stata offesa da chi sa che non ho fatto nulla e avrebbe dovuto invece spiegare perché era suo dovere prima morale e poi politico. Non posso restare in un governo che non ha difeso la mia onorabilità. Questa è la lettera di dimissione di Nunzio Di Girolamo da ministro, con la quale difende la propria dignità, l'avete sentito, dalla mancata difesa della sua posizione da parte del suo partito e del governo. Noi avevamo sentito il leader del suo partito, Angelino Alfano, il 20 di gennaio, e a una domanda precisa e specifica sul caso Di Girolamo, Alfano ci aveva risposto così. Il presidente Letta non ha detto una parola per difendere Di Girolamo. Vi siete confrontati su questo punto? No, il presidente Letta non ha detto nulla. No, il presidente Letta era del tutto consapevole del fatto che noi saremmo andati ai banchi del governo accanto al ministro. No, d'accordo, ma perché non ha detto nulla? Ma non c'è stata ancora la occasione pubblica. Guardi, pensa che lo dirà? Sì, se servirà io credo di sì. Ecco, non c'è quindi, quindi per lei se la Di Girolamo cade, lei lascia il governo su questo punto? Noi abbiamo convinzione che mancherà la premessa alla sua domanda perché non cadrà. Pochi giorni dopo, 3 giorni dopo, il Presidente del Consiglio Letta ha avuto l'occasione di fare ciò che Alfano aveva preannunciato, cioè difendere o no pubblicamente la Di Girolamo. Questa è la risposta del Presidente Letta a una domanda specifica di Lilli Gruber a 8:30 sulla 7. La compagine governativa resterà così com'è, ho capito bene? No, noi discuteremo con i partiti, con coloro che ci sostengono, di un programma di governo, di un aggiustamento, di un miglioramento del programma di governo, dopodiché alcune di queste discussioni sono discussioni che possono portare a un miglioramento, a nuovi ingressi. A un ricambio delle persone. Lo vedremo nelle prossime settimane. Si può migliorare? Sì, si può sicuramente migliorare. Cioè, la ministra Di Girolamo va bene. Guardi, io le ho detto, il governo funziona bene così com'è. Si può migliorare la compagine di governo? Certo che si può migliorare, ne parleremo con chi sostiene il governo e il Parlamento. Dunque, pensiamo che il segreto delle dimissioni della Di Girolamo, lo chiederemo a lei appena vorrà risponderci, è racchiuso tra queste due frasi, quella di Alfano e quella di Letta. Difesa, così dice lei stessa, della dignità personale e richiesta di chiarezza politica, quindi motivazioni morali e politiche. Mario, secondo te cosa farà il governo? Beh, è come un gommone in alto mare in questo momento. Deve rimpastare, come suol dirsi, deve rifare il programma, deve sostituire i ministri importanti, perché comunque il Ministero dell'Agricoltura non è di secondo piano, non è un ministerino, no? Non è un senza portafoglio, per intenderci. E quindi non sarà, secondo me, facile. Cioè, stanno veramente galleggiando. È una situazione molto difficile. Penso che Renzi debba metterci le mani. Secondo te Renzi accetterà un rimpasto nel quale ovviamente Letta cercherà di inserire ministri renziani? Renzi ha interesse a fare una cosa così? Sì, in teoria sì, cioè, diciamo che intelligenza politica. Credo di no. Intelligenza politica, però vorrebbe che lui puntellasse il suo governo. La realtà a quel punto c'ha le mani legate, non può più fare nulla. Beh, ma perché adesso sta facendo qualcosa? No, sta incalzando il governo in modo significativo. No, Renzi, con la proposta. Io mi riferivo a Letta. Sto parlando di Renzi. Penso che Renzi non abbia interesse. No, certamente. Cioè, se Letta vuol farsi il suo rimpasto, lo faccia. Ma questa è la linea di Renzi ed è logico che sia così. La linea di Letta è ovviamente opposta. Tra i due bisogna vedere chi vince. Lo sapremo presto. Sembrava un pacco regalo, all'interno invece c'era la testa mozzata di un maiale, recapitata qui al Museo di Roma in Trastevere all'inizio dello Shabbat, il giorno santo per gli ebrei. E caccia in tutta Italia. È soltanto l'indice, purtroppo, della presenza di sacche di resistenza di persone che sarebbero disposte molto volentieri a tornare agli orrori del passato. C'è ancora antisemitismo? Questo odio non lo capisco. Dunque, 3 pacchi con dentro 3 teste di maiale, una alla Sinagoga di Roma, la seconda al Museo di Storia di Trastevere, la terza all'ambasciata israeliana. Letta dice: i gesti di oggi dimostrano che mai bisogna abbassare la guardia. Anche Berlusconi dice atti vili, grumi di intolleranza che esistono ancora nel nostro paese. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Riccardo Pacifici, presidente delle comunità ebraiche di Roma, buongiorno. Quali sono gli antidoti contro questo passato che non passa? Buongiorno intanto. Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Gli antidoti sono continuare a fare quello che stiamo facendo. Sostanzialmente abbiamo l'impressione che il lavoro che si sta producendo nel paese da quando si è istituita la giornata della memoria, luglio del 2000, sta cominciando a dare i suoi frutti. C'è un'Italia e soprattutto giovani più consapevoli del passato, più presenti rispetto a quelle che sono state le esperienze grazie al lavoro infaticabile, e io voglio cogliere l'occasione per ringraziarli, a tutti quei sopravvissuti, quelli ancora in vita e quelli che purtroppo ci hanno recentemente lasciati, e che facendo un lavoro come in un goccia a goccia in un oceano vanno in ogni scuola di ogni angolo d'Italia rispetto a delle richieste che sono infinitamente superiori a quelle che sono le disponibilità di coloro che hanno modo di poter raccontare. Ecco, infatti, Presidente, lei ha scritto oggi sul Corriere della Sera: bisogna dare ai giovani strumenti per non restare indifferenti. Naturalmente la testimonianza dei sopravvissuti è lo strumento numero uno, ma poi? Poi bisognerebbe cambiare le regole della comunicazione. Questo è un rimprovero che faccio a noi tutti, il rimprovero che dobbiamo anche fare all'interno di chi fa comunicazione, i responsabili delle redazioni, i direttori di carta stampata e dei giornali. Prendo l'esempio di una bellissima rappresentazione teatrale, ma è una delle tante, quindi me ne scuso con tutti quanti gli altri. Un recital con musiche che ha visto coinvolto almeno un centinaio di ragazzi dell'istituto, delle scuole medie dell'istituto Alfieri Lante della Rovere di Roma, che all'Università La Sapienza nell'Aula Magna hanno fatto una rappresentazione non solo bella sotto il profilo qualitativo, ma anche ovviamente commovente, puntuale, precisa. E questo è un lavoro che, come dicevo a loro, alla fine rischia di rimanere fra le quattro mura di quell'istituto scolastico. Sì, in è quel vero, caso, però a un ordine per la... vero. A un ordine ma non fanno notizia. No, allora, Presidente, dicevo ai ragazzi, il rischio è che se uno fra voi, malagoratamente, e ancora non sapevamo nulla dei pacchi, era venerdì alle ore 14, dovesse fare un gesto in consulto, una svastica, voi vi ritrovereste centinaia di telecamere fuori della scuola ad additarvi come una scuola di razzisti. Mentre invece le centinaia di telecamere dovrebbero esserci oggi. È la parte genuina del paese, di quei bellissimi insegnanti che fanno un lavoro importante. Certo, si potrebbe fare di più, ma i miracoli non possono arrivare in un periodo di fronte ad un paese che ha cominciato a parlare di queste cose colmando un gravissimo ritardo. Presidente, scusi, io penso che questa istituzione della giornata della memoria sia invece una cosa che costringe ciclicamente tutti, non solo i teatrini di scuola, ma storie, come dire, radio, televisioni. Penso che la televisione, anche la televisione di Stato, ha fatto in questi anni moltissimo per continuamente ricordare quello che è capitato, onestamente, questo per dire la verità. Guardi, se avessi voluto terminare avrei voluto dire, prego, attenzione, quello che fa l'Italia, l'ho detto anche in altre occasioni in questi giorni, ma lo ripeto da tempo, l'Italia è in questo caso non fanalino di coda, ma è testa di serie, mettiamola in questi termini, in una mobilitazione per la giornata della memoria che non appare in altri paesi in Europa, ma forse nel mondo, forse anche più di quanto possono fare in Israele. Ormai non è più la giornata, ma sono settimane che i sopravvissuti, e noi stiamo andando a parlare, settimane ancora ci aspettano dopo il 27 gennaio, in ogni parte d'Italia. Il lavoro anche della televisione di Stato, tutti gli approfondimenti, la 7, Mediaset, tutti quanti, anche le televisioni locali, Mario, la stampa fanno un lavoro bellissimo, ma il Presidente, vero lavoro è dare protagonismo, sì, ai ragazzi, esatto. Bisogna renderli loro, metterli al baricentro di queste attività, fargli capire che possono essere emulati per cose belle e non per cose brutte. Presidente, c'è Mario Secchi che vuole farle una domanda. Buongiorno. Presidente, le risulta che il caso dei pacchi stia per essere risolto? Bah, non sta a me a dirlo, quindi se lei fa una domanda probabilmente già conosce la risposta. Diciamo che siamo molto fiduciosi, lo abbiamo detto sin dai primi momenti, anche perché l'intelligence delle forze dell'ordine in Italia, sia dei carabinieri che di forze di polizia, tutte quante, è una tra le migliori, quelle che sa prevenire attentati ma sa anche trovare immediatamente. La domanda che pongo è: cosa succederà qualora dovessero essere arrestati? Riusciranno ad avere, avremo garanzie? E qui continuo a fare ovviamente il mio appello per l'introduzione nel nostro paese, ha ripreso l'iter fortunatamente in Senato, del reato del negazionismo, come già avviene in altri 14 paesi europei, e per recepire il protocollo europeo di Budapest del 2008, che obbligherebbe tutti i paesi ad introdurre il reato del negazionismo. Posso fare un'altra domanda? Certo. Quante persone lavorano alla sicurezza della vostra comunità, cioè che fanno, diciamo, che dipendono direttamente da voi a Roma? Ma a Roma ci sono 12, chiamiamole guardie giurate, che ufficialmente si occupano, turnandosi, della presidio di tutti gli edifici della nostra comunità, che non è solo la sinagoga, sono le scuole e tanti altri edifici, collaborano con le forze dell'ordine. Per esempio sulla vicenda del pacco ha funzionato il protocollo, nel senso è arrivato un pacco, i servizi di sicurezza non lo hanno accettato, è stato rispedito al mittente, ma non si sono limitati solo a rispedire al mittente, hanno immediatamente chiamato la Digos, che è intervenuta con gli artificieri, e invece di trovare una bomba hanno trovato una macabra testa. Io dico che ne manca una di testa del maiale che le ha spedite. Certo. Presidente, un'ultimissima cosa, riceviamo un SMS, d'accordo su tutto, naturalmente, le vittime, ma le vittime di tutti gli altri genocidi sono figli? No, assolutamente no. Per chiudere il discorso. Calza proprio in quello che abbiamo fatto cinque minuti fa. In questa sinagoga è venuto l'ambasciatore armeno a deporre una corona. Questo perché, attenzione, perché la scuola ebraica, forse l'unica in Italia, ha commemorato lo sterminio del popolo armeno, e abbiamo fatto una lezione ai ragazzi della nostra comunità nell'aula magna della scuola ebraica, proprio per condividere quella memoria. Ognuna ha un suo momento e quelli vanno ricordati nei momenti giusti. Ecco. Oggi è il giorno della memoria. Certo, esatto. Grazie Presidente. Naturalmente noi nella seconda parte della nostra trasmissione racconteremo la storia di un grande eroe di questa vicenda della Shoah, quella di Giorgio Perlasca. Ma intanto una piccola anticipazione. Alcuni giorni dopo la presa di potere da parte dei nazisti hanno imposto la stella davanti e di dietro, e questo mi ha fatto una molta impressione, insomma, perché non avevo mai visto una cosa del genere, e vedere degli uomini o delle donne marchiati in quella maniera, insomma, non era una cosa che io potevo approvare, insomma, anzi. E poi ho visto che hanno i nazisti ungheresi inseguivano un bambino che avrà avuto 7-8 anni, lo hanno raggiunto e lo hanno ammazzato lì sulla strada. Ho domandato perché, chi era, ho domandato dei passanti, ho detto è un bambino ebreo. La mia opinione su quello che è avvenuto e sulle mie possibilità è che l'occasione fa l'uomo ladro, e di me l'occasione ha fatto quello che è avvenuto, insomma. Scusi, c'era della gente che era in pericolo di morire e bisognava fare qualche cosa, no? Avendo la possibilità di farlo, l'ho fatto. Certo, lei mi dice non aveva paura, ho avuto anch'io paura. Per esempio quando mi hanno sparato dietro i nazisti. E quando ha raccontato questa storia incredibile in Italia, cosa è capitato? Beh, insomma, non è che io l'abbia raccontata, la raccontavo a pezzetti e episodi in famiglia, ma... Ma sua moglie almeno le credeva? Ma non credo. Neanche sua moglie? Non credo. Ma come mai la raccontava perché proprio dicevano, così, troppo umilmente? Perché dicevano che, probabilmente dicevano che erano cose inverosimili, e allora non è che dicevano che non credevano, però capivo che insomma... Insomma, e questo non le faceva effetto dentro a lei? Boh, avevo altro a pensare, c'era da sbarcare il lunario. Senta, ma lei come vorrebbe che fosse ricordata in Italia questa sua storia? Beh, vorrei che i giovani si interessassero a questa storia unicamente per, come si dice, pensare, oltre a quello che è successo, a quello che potrebbe succedere e saper opporsi eventualmente a violenze del genere, violenze morali, perché ci sono, le violenze possono essere morali oltre che fisiche. Ecco, questo penso. Ecco, 800 24 0024 il numero verde, SMS 349 238 6666. Mario, un personaggio davvero incredibile, cioè, che ci fa sentire fieri di essere italiani. Pensa che è stato scoperto da Mixer insieme a Enrico De Aglio, ed era... L'hai sentito? Praticamente una persona che aveva lasciato, quasi non lo raccontava. Sì, no, è un giusto non gli Israele. Credeva neanche la moglie. Non gli credeva neanche la moglie. Cioè... È molto, molto interessante, ovviamente, riascoltare queste parole e rivederle alla luce della contemporaneità. Mi pare che l'Italia abbia smarrito un po' di questo spirito. Adesso io non sono mai un pessimista, penso sempre che le cose possono andare meglio, però certo, se noi facciamo una carrellata dei personaggi di cui stiamo dando conto, no, nei tuoi faccia a faccia, nelle ricostruzioni storiche, insomma, c'è qualcosa che si è perso. Non so quando si è rotto il miracolo, l'incantesimo, io questo non lo so individuare, però non so se tu hai la stessa sensazione. No, qualcosa che si è perso mi sembra proprio una definizione purtroppo tragicamente vera. Dice una signora, Anna Marinari, ci scrive: credo che la giornata della memoria purtroppo non basta, c'è parte della società violenta, approssimativa e ignorante in una società mediatica, cioè in un certo senso dà anche una responsabilità a noi dei media, responsabilità che per quanto mi riguarda ci prendiamo, perché effettivamente un racconto troppo urlato e troppo superficiale delle cose poi porta a superficializzare tutto. E a perdere la profondità della memoria e del ricordo. No? Beh, tieni presente poi che su questo incide molto la storia del conflitto israelo-palestinese, cioè c'è un problema, diciamo, di interpretazione che poi casca anche ovviamente sulla immane tragedia della Shoah, per cui è tutto avvolto nel pregiudizio. Ognuno può fare le sue libere valutazioni, però insomma, quando ci sono di mezzo i genocidi e quando c'è di mezzo un tale livello di violenza, secondo me andrebbe appunto fatto un lavoro di riflessione, urlare, quello che dicevi tu. In questo senso il passaggio, come diceva Pacifici, attraverso le scuole, sì, perché è qualcosa che deve, come dire, deve radicare alla base l'idea che questa violenza è contro l'umanità prima di tutto. Esatto. Ecco. Esatto. Io penso, ricordo che nella seconda parte della trasmissione noi racconteremo per intero la storia di Giorgio Perlasca, Un giusto di Israele, una storia che è stata anche raccontata in un libro bellissimo di Enrico De Aglio, La banalità del bene. Mix 24. Ma quando t'arrabbi sei ancora più bella, e così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai, tu bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua. Ma se mi lasci non vale. Mario, questa Julio Iglesias, caro Minoli, la canzone, insomma, l'abbiamo scelta. Ci sarebbero tanti casi a cui applicarla, però il caso di Nunzia De Girolamo è là. Se mi lasci non vale, insomma, ha mollato il governo. Certo, mollato. Abbiamo presentato, abbiamo visto i due file audio che sono abbastanza chiari, anche abbastanza semplici. Non c'è nessun nessun procedimento penale, no, oggi, quindi diciamo escluso quel versante della questione, resta il fatto politico e morale, semplice, chiaro, rinchiuso fra due frasi. Due frasi molto precise. Reticenti però. No, reticenti ma anche messe a nudo da un comportamento forse più femminile che maschile. Un coraggio che forse in qualche modo, al di là appunto di tutti gli sviluppi che ci saranno, ma dal punto di vista psicologico, io penso, psicologico e politico, cioè una politica fatta al femminile con un'intensità forse anche un po' diversa dal solito. Beh, devo dire, è stato sorprendente, no? A ciel sereno, dimissioni, lettera, pare che non abbia consultato neanche il suo staff, abbia deciso da sola. Brava comunque. Lezione, devo dire, sotto questo profilo niente da dire. E dopo la canzone? Cosa bolle in pentola? Vivendo un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà, te lo vendo che già. Allora Giovanni, qua mi vendo Renato Zero e tu mi dai perché c'è il round di privatizzazioni, così si chiama, post Enel, poi vediamo cosa aggiungeranno, c'è in ballo Enel ed altri, ma per un totale di qualche decina di miliardi, 12 miliardi, adesso vediamo poi cosa fanno. Io però voglio lanciare a te e ai nostri ascoltatori un tema, perché si è detto che gli introiti, i ricavi delle privatizzazioni devono andare a riduzione del debito. Questo è corretto, diciamo, da un punto di vista meramente formale. Però la tua obiezione qual è? La mia obiezione è questa, che noi abbiamo 2 trilioni di debito, cioè 2.000 miliardi e fischia, siamo 2.100 miliardi di euro di debito. Cosa volete che siano 10 miliardi e rotti di riduzione? Sì, però se non si comincia da qualche parte, aspetta, naturalmente gutta cavat lapidem, che tu hai fretta, la goccia che scava la roccia. Tu hai fretta di infilzarmi, no. Ma io ti propongo e propongo agli ascoltatori l'alternativa, e cioè che quei 12 miliardi vadano a lenire le ferite dei poveri contribuenti che oggi hanno una pressione fiscale reale, per pazzesca, le imprese in particolare, del 68%. Ora, cari ascoltatori, anche i poveri stipendi sono abbastanza vessati dalle tasse, di cui parleremo tra poco. Cari ascoltatori, voi preferite che questa goccetta di 12 miliardi di privatizzazioni, che poi vedranno come andranno, vada a riduzione del debito, che è di 2 trilioni, o che vada invece ad abbassare la pressione fiscale? Punto di domanda. Beh, ovviamente 800 24 00 24, per chi vuole fare domande, 349 238 6666 per chi preferisce scrivere un sms. Ma una cosa te la voglio chiedere io. Dimmi. Nelle poste, nella privatizzazione delle poste, una cosa nuova Letta l'ha introdotto, che è un'ipotesi iniziale di cogestione sul modello tedesco, cioè gli operai, che i lavoratori che partecipano alla gestione entrano nel consiglio. Sarò di molto gestione. Cattivo, sì. Perché, caro Minoli, i sindacati già oggi decidono un sacco di cose nelle poste, tanto. Senza avere la responsabilità La gestione, capito? Pensi che non gli convenga? No, non penso, perché come sono organizzate le poste adesso non spediscono manco lettere più, fanno banca, parliamoci chiaro. Poi ho visto banca, che entrano anche nel capitale dell'Italia, quindi noi ne prendiamo atto, come suol dirsi. Le lettere voleranno adesso. Sì, sempre di più. Airmail. Giovanni, il prezzo è giusto. Senti, certo, ci manca Pietrangelo. Io voglio dire, Pietrangelo, noi ti aspettiamo con ansia. Torna! Perché ci serve. Torna tra noi. Allora, Giovanni, le bolle sono molto economiche questa stamattina, perché sto cercando di tirar giù un filo conduttore, un ragionamento. Quindi noi abbiamo detto le privatizzazioni, la pressione fiscale. Poi il problema delle privatizzazioni in quel modo. Poi abbiamo, sempre contemporaneità, il problema della deflazione. Che cos'è? Prezzi molto, una bestia nuova, molto bassi, una bestia vecchia nuova, no? Vecchia nuova, certo. Il Giappone ne ha avuto 20 anni di questa roba. Beh, ha affrontato e in qualche modo risolto. E in qualche modo vedremo, no, come sta risolvendo. Ma può essere una strada? Sì. No. Sì. Per me sì. Cioè, no, no, non io ti voglio interrompere, vai. Io penso mi sgridano, sì. Che dicono che interrompo troppo. Mi vuoi fare un faccia a faccia? No, no, per carità. Sono sgridato continuamente. No, allora, la nostra ripresa, secondo le ultime osservazioni fatte da... No, scusami, stavolta ti interrompo però. Perché vai. Giuseppe scrive una cosa, secondo me, molto intelligente. È iniziato questo degrado, dice, quando i media e fra tutti la TV ha iniziato a smantellare la società per crearne un'altra assoggettata ad essa, abbruttita e con pochi valori morali. Giuseppe, ecco, questo è uno stimolo importante per tutti noi. Che questo è un dito puntato sui talk, parliamoci chiaro, traduciamo. Ah, beh, tradotto in italiano. Tradotto, è così. Allora, prezzi, deflazione, che cosa sta succedendo? I prezzi nell'eurozona sono molto bassi. Questo è causato dal fatto che c'è una domanda bassa. Cosa fanno le imprese? Cercano di far leva sul prezzo, ovviamente, per stimolare i consumatori e quindi aumentare gli acquisti. A un certo punto che cosa fanno però? Non possono più far leva su molti fattori di produzione e cominciano a tagliare i posti di lavoro. Posti di lavoro significa meno buste paga significano meno soldi spesi, quindi la mia spesa, che è il reddito di un altro, finisce per mandare in depressione completamente il sistema. È un problema enorme, sta mettendo a rischio la già debole ripresa italiana e a quanto pare pure quella spagnola. Sì. Draghi ieri ha detto che farà di tutto per combatterla. Io segnalo che Saccomanni, non so perché francamente, ha detto che il problema in Italia non esiste. Però se andiamo Saccomanni, senza sembrare, come dire, tignosi nel fare osservazioni sul suo comportamento, no, però mi pare che ci siano stati molti buchi neri nelle scelte fatte. Esatto, sì. Quindi secondo me non va bene. E poi lavoratori. Vabbè, questa, insomma, questa è una scena, è una scena alla DiCaprio. No, dimmi. No, vabbè, è feliniana. Però attenzione, perché noi dobbiamo parlare di disoccupazione. Martedì arrivano i nuovi dati, no scusate, il 31 gennaio, non martedì, arrivano i nuovi dati europei. Il tasso di disoccupazione resterà più o meno lo stesso, Giovanni, ma la realtà è che se andiamo a vedere bene le stime e consideriamo anche quelli che non spediscono più curriculum, che non cercano più lavoro perché non ne vale più la pena, eccetera, il tasso è doppio, diventa 24%, certo. In realtà, quello ufficiale era 12,7 a novembre. C'è gente che dice è inutile andare a lavorare per due soldi, preferisco stare in casa. Ancora una volta, e tra un po' vedremo, il problema è quello del reddito. Oltre il 12% dei lavoratori non tira avanti con la paga che ha in Italia. E questo a tutti i nostri ascoltatori, ecco, o a molti di loro è chiarissimo. Segnalo che noi siamo in una situazione simile a quella della Grecia e della Romania su questi indici e su questi fattori. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through un fatto di peso. Don't cry for me Argentina, perché? Perché le disavventure della moneta argentina stanno affondando i mercati. Dubai va male, i mercati asiatici pure, e la storia si ripete. Insomma, è la valuta ufficiale dell'Argentina al 92, il nuovo peso, prima era agganciato alla convertibilità del dollaro, adesso invece l'hanno svalutato, è andato giù del 17%. Insomma, secondo me tango e default, come sempre, sono le due parole chiave dell'Argentina. Segniamo qua. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Beh, Gordon aveva ragione. Nostro amico Gordon aveva ecco. ragione. Insomma, a Davos si è discusso un sacco di ineguaglianza. Io devo fare una rettifica, così spiego che cosa è successo. Su una paghetta del capo di JP Morgan, avevo detto che era 11,5 milioni di dollari. No, sono 20. Ah, ti sei sbagliato. E quindi questi parlano di etica del capitalismo, sai, in fondo hanno avuto solo qualche miliardazzo di multe per gli ultimi scandali finanziari, ma va tutto bene. L'importante è che a Davos si scii e si parli di queste cose. Samurai. I sette samurai. Ah. Perché? Perché, come dicevamo prima, tu dici la ricetta è giusta, non lo so, però una cosa è certa, le esportazioni del Giappone sono salite del 15%, quindi Shinzo Abe qualcosa ha fatto. Dopodiché vedremo se risolverà uno dei temi, che è quello del costo dell'energia per il Giappone, perché non hanno materie prime, stanno, diciamo, hanno ridotto la produzione di energia atomica, come sapete, quindi devono trovare un sistema. Maddio. Dopodiché, aspetta, c'ho 5 secondi. Non la trovi, perché è vero che i Daft Punk hanno vinto il Grammy e che Ringo e McCartney ballavano durante la cerimonia, ma William Farrell ha tirato fuori questo brano che secondo me darà grandi soddisfazioni a un artista che è davanti e dietro le quinte della scena pop internazionale. Vai! Mix 24 800 24 0024 349 238 6666 il numero dell'SMS. Per chi ha qualcosa da dire sulla televisione di ieri, dov'era il canone ieri, cioè la tassa che paghiamo tutti gli anni per avere un servizio pubblico di qualità? Professor Giorgio Simonelli, buongiorno. Buongiorno. Dov'era il canone ieri sera? Ma guardi, siccome ieri sera era la vigilia della giornata della memoria, credo che il canone era là dove questo appuntamento è stato celebrato nel migliore dei modi. Quindi se ne parlerà molto anche oggi, immagino. Sì, sì, ecco, ma qui c'è un problema, perché insomma, la domenica che precede, insomma, è più facile forse trasformarlo in un giorno di celebrazione che non un giorno feriale. Credo che su questo, insomma, l'intervento della Löwenthal, che ha segnalato le difficoltà di questa celebrazione, sia importante. Quindi il servizio pubblico, dove è riuscito anche facendolo dall'alto, è importante. Allora, ieri il servizio pubblico non ha fatto granché, approfittiamo dell'assenza di Buttafuoco e diciamo che si è salvato ancora una volta Fabio Fazio, che almeno ha dedicato una delle sue interviste a questo tema. Ma chi ha brillato è sicuramente la 7. Ieri chi ha fatto meglio questo compito è stata la 7, perché ha fatto praticamente tutto il giorno di ricordo della giornata della memoria. Ha cominciato già nel pomeriggio con un film bellissimo. Una giornata tematica, insomma. Sì, Arrivederci ragazzi, che è un film di Mal, che ha vinto nell'87 il Leone d'Oro a Venezia. Ecco, scusi professore, a proposito di cinema, però devo dare una notizia, Rai Cinema, per completezza di informazione, con il film Anita B di Faenza, Roberto Faenza, partecipa alla giornata della memoria e oggi il film sarà visto a Gerusalemme. Prego, scusi. Dicevo, poi tutta la serata di ieri sera è proseguita con un documentario inedito sulla quando bisognava salvare gli ebrei, un documentario francese alle 20:30, poi La chiave di Sara, un film già visto in altre occasioni, ma un film di una certa intensità, e infine L'ultimo treno. Insomma, a me sembra che questa occupazione di tutto un palinsesto tematicamente sulla giornata sia una scelta molto molto pregevole. Per cui, insomma, il canone ieri sera era sicuramente sulla 7. Però bisogna aggiungere, se ho tempo, un paio di cose, perché oggi prosegue e ancora una volta torniamo a parlare di Rai 5. Perché Rai 5 questa sera, in diretta dall'Auditorium di Roma, segue un concerto, trasmette un concerto, I Violini della Speranza. Quindi un concerto in cui si alternano artisti ebrei e musulmani, su Rai 5 dalle 20 alle 22. Mi sembra che l'intensità, la profondità di una diretta, di un evento in diretta, è forte. Sia molto significativa. C'è Anna D'Ancona che è d'accordo con lei e dice... vero sulla memoria, bene la 7, vede, non è solo. Ho qualche seguace. Volevo infine se c'è tempo, segnalare sì, una cosa c'è un minuto ancora. Che non riguarda la televisione. Esco un attimo dal canone per segnalare che oggi esce il film di Margherita von Trotta, che ha avuto qualche difficoltà di distribuzione. È un film, una biografia di Hannah Arendt, che io ho visto questo film in Francia qualche tempo fa. È un film interessante, è un film che affronta il grande tema della banalità del male, delle difficoltà che Hannah Arendt, che aveva seguito, come è noto, il processo di Eichmann, ha incontrato nel momento in cui ha esposto pubblicamente la sua tesi sulla banalità del male. Hannah Arendt è interpretata da Barbara Sukowa, è un film molto rigoroso, proprio fatto così alla maniera della von Trotta, senza nessuna concessione, diciamo, al sentimento, però è un film che affronta uno dei nodi centrali del problema dello Shoah e della memoria. Quindi insomma, il fatto che arrivi in Italia sia pure in ritardo, meglio tardi che mai, onore alla Ripley che l'ha preso e l'ha fatto uscire, almeno in questi giorni. Professore, faccio un piccolo passo indietro perché c'è Ciro, 53 anni, che è Mario contrario, lavora alle poste, è contrario alla privatizzazione, dice no per favore mai. Vabbè, tot capito, voglio dire. Kentu Goncas, Kentu Berrittas, 100 teste, 100 berretti, perché no? Professore, un finale? Il finale è appunto ora, questa sera, insomma, mi sembra che... ritorno su questo tema, è stato detto la giornata della memoria è difficile in qualche modo farla. Va bene, abbiamo capito. Vediamo stasera Giulia Mizzoni, chiedo scusa, che è un'appassionata di calcio, è il nuovo volto di Fox Sport. Giulia Mizzoni, tu sei la prima donna ad avere fatto una telecronaca. Quale partita era? Era una telecronaca di Champions, Genk Bayer Leverkusen, non un partitone, ma insomma comunque ha riscosso grande entusiasmo generale. Ecco. Com'è andata? Mi sembra si ammalò probabilmente il collega che avrebbe dovuto farla, quindi venne avvertita un paio di giorni prima che avrei fatto questa telecronaca. È andata bene, ero abbastanza agitata. Sì, senti, sì, decisamente normale. Ma in che modo ti prepari per una telecronaca? Non so, per esempio Martellini aveva tutta una serie di regole addirittura per preparare la voce alla telecronaca, tu che cosa fai? Allora, no, la voce, devo dire la verità, non è che la prepari in nessun modo. La telecronaca in sé, quindi tutto quello che riguarda la preparazione della partita, delle squadre, di tutte le curiosità, quello sì, anche diversi giorni prima, giocatore per giocatore, tipo, quindi è una cosa abbastanza minuziosa. Da chi hai ereditato questa passione per il calcio, se l'hai ereditato? Bella domanda, no, non è vero, nel senso che sono cresciuta con il televisore acceso sulle partite di calcio da quando ero piccola, perché mio padre è sempre stato un grande tifoso. Quindi sulle partite della Roma, diciamo. Sì, sono cresciuta respirando il calcio, però non è che mi sia mai interessato da quando avevo 2 o 3 anni, come succede magari ai maschietti, è stata una cosa molto più in ritardo. Progressiva. Sì, avevo 14 anni, ma guardando proprio un mondiale. Francia 98, Di Biagio che sbaglia il rigore, e lì è nato questo amore, anche che mi sono arrivata in lacrime, quindi ho pensato, di solito quando siamo queste reazioni ti fa una domanda, ma come mai sto qui disperata in lacrime? Adesso conduci su Fox Sports, no? Ma come sei arrivata lì? Con tanta gavetta, viva Dio, meno male, è giustissimo così. Io ho cominciato a fare questo mestiere, a provare a fare questo mestiere, appena uscita dal liceo, facevo contemporaneamente università e questo mestiere, proprio sui campetti di periferia di Roma, radio private, televisioni private, via via, sempre a salire, mi sono ritrovata che dopo 10 anni sono a Fox Sports. Ma tu preferisci come stile le telecronache di Carosi o quelle di Caressa? Ma io credo che i grandissimi di adesso abbiano preso comunque spunto dai grandissimi di un tempo, con uno stile completamente diverso, come è giusto che sia. Qualcuno, no, oggi dice che il calcio non è più vero, non è più genuino come un tempo. Tu cosa rispondi? Ma anche per certi versi sicuramente è vero, è tutto un po' più glitterato, mi verrebbe da dire, è tutto molto più sotto i riflettori, ci sono anche degli interessi economici che sono cresciuti, è vero che forse c'è un po' meno genuinità, quella forse bisognerebbe un po' riscoprirla, no? Quando ti vediamo su Fox Sport? Tutti i weekend, non è tutti che vi liberate di me tanto facilmente. Perfetto. Non si scappa, sabato e domenica presente, il lunedì in telecronaca, quindi proprio... Grazie mille. Grazie a te, ciao. Ecco, questa bella intervista era di Sara Tardelli e oggi, nel giorno della memoria, come abbiamo detto in precedenza, raccontiamo l'incredibile storia di Giorgio Perlasca, un italiano che fingendosi ambasciatore spagnolo è riuscito a mettere in salvo più di 5.000 ebrei nella Budapest occupata dai nazisti. A seguire un'intervista al figlio di Giorgio Perlasca, Franco, il tutto curato come sempre da Marina Milone.